22:55 minuti primi, le frequenze di Onda Rossa 87,9 della modulazione di frequenza della banda e romana e laziale. Siamo ritornati. In questo 15 dicembre, ormai, giro di boa della settimana, giro di boa del mese di dicembre, ci avviciniamo a passi veloci all'appuntamento di fine anno di Il Carcere, presidio sotto Re Bibbia, 31 dicembre 2021, dalle 10:30, via Maglietti, angolo via Bartolo Longo. Abbiamo qui davanti lo splendido manifesto che indice il presidio sotto Il Carcere di Re Bibbia di fine anno. "15 detenuti uccisi, torture, rivolte, processi, il tempo non cancella la rabbia per quel marzo 2020, vi ricorderete? Le rivolte scoppiate quando iniziò a serpeggiare un po' ovunque il panico per il virus Covid-19, che ha un po' così sconvolto la vita di tutte e tutti, ma in principal modo mentre si professava il distanziamento sociale, così veniva chiamato con un termine orribile, nelle carceri si viveva e si vive tuttora un'estrema promiscuità. Questo allarmò molto. Le persone detenute, e perciò, peraltro, appunto, anche il Covid entrò in carcere tranquillamente, perché non so certo le mura, appunto, che separano, che riescono a isolare i microorganismi. Ci furono perciò delle rivolte mentre tra l'altro giravano le notizie un po' per il mondo che per paesi considerati da noi non democratici, almeno dal mainstream non democratici come l'Iran, ma persino in Turchia, certo, con le dovute paraculaggini proprie di questi stati, insomma. Le carceri venivano svuotate, da noi non si davano nemmeno i permessi, anzi venivano limitati gli accessi dei colloqui, insomma, dei parenti, delle persone carcerate. Questo portò a delle rivolte, furono represse come si suol dire nel sangue. E appunto, 15 detenuti uccisi in Italia, 10 solo a Modena. È bene ogni tanto ricordare di questi fatti. Va bene, Radio Onda Rossa vive grazie al contributo di tutte e tutte. È uscita dalla scarceranda. Sabato ci sarà la Perirore, le presentazioni scarceranda ci sono già in giro, magari avremo modo anche di presentarvele più là quando avremo lo schemino davanti. '61 80 40 40 01, numero del conto corrente postale di Ente Stara Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Per le vostre sottoscrizioni www.onderossa.info, vi rimando al tastino sostieni. 25 o'clock, chiocciolandossa.info, il contatto della trasmissione che state ascoltando. Onda rossa chiocciolandossa.info per le vostre comunicazioni via mail alla radio, poi ci stanno i social. 0649175050, quello c'è sempre. Il telefono di Ror. Stasera anche parleremo poco, vediamo un po' all'inizio se vi diamo qualche altra informazione, e alla fine, nel bel mezzo, cercheremo di non disturbare questa volta. Bert Müller Session. Come promesso, vi diamo i dettagli della Perirora per presentazione di Scarceranda per sabato 18 dicembre al centro sociale occupato e autogestito SNIA. A Perirora l'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa dalle 18, diretta radio con Salpinaz. Per chi c'è stato lo scorso a Perirora, we'll be right back. insomma un giochetto interessante quello che proponiamo con la radio in diretta. Poi 19:30 termina Salpinaz di DJ Lenin, presentazione culinaria di Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, drink e cibarie curate dalla radio a sostegno della radio e ovviamente musica. Intervenite tutte e tutti, anche intorno al solstizio d'inverno, ma sappiamo che verrete. Quindi di 18 dicembre a Snia Viscosa la presentazione di Scarceranda di cui abbiamo parlato, 31 dicembre presidio sotto le Bibbie, 5 gennaio libreria Tuba al Pigneto. La Scarceranda la trovate qua in radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 a San Lorenzo, oppure alla libreria Tuba al Pigneto, alla libreria Lo Ieti sempre al Pigneto, a San Lorenzo invece alla libreria Giuffà e poi la libreria Otratec, come sapete, proprio al centro di Roma. Lasciamo le Savages di Jenny Beth, ancora con Jenny Beth invece con gli Idols. Hey! Idols di Jenny Beth. Noto Sheppas, moi. Disco del settima traccia, se non andiamo errati, del disco del 2020 degli Address. Onda Rossa 25 o'clock. Wertmüller Session. ma dovete dire? Una cosa molto delicata. Delicatissima. Di cosa tratta? Mimì, tu sei un uomo che ha viaggiato, che conosce il mondo. Come si dice, sei uno che ha corso la cavallina? Ma di che cavallina stai parlando? Pasquale vuole dire che la vita ti fece trascurare certi doveri, certi impegni morali e materiali. Ma che cosa vorresti illudere? La Rosalia, la tua moglie allude. In che senso? Meschina, la restaste sola qua, tu al nord, anche quando tornaste avevi sempre che fare, e da sempre sola. E vabbè, sempre sola, e che cerca compagnia? No, è che, non è che... Avanti, parlate chiaro. Che mi mandano Rosalia, perché ci hanno raccontato qualche cosa di me? No, no, è che, insomma, tua moglie... Meschinetta. Si è sentita oscurata, e... Misera. Ma che ci fai da suggeritore, to? Zitto tu, Pasquale. Dicevo, si è sentita scurata, così, senza figli. Senza figli. E se non vennero, colpa mia fu. No, ma c'era l'esaurimento. Insomma, tua moglie non si sente felice. Rosalia. Beh, mi dispiace. Io a Rosalia ci voglio bene. Si dimostrò buona moglie, operaia operosa, e per essere una siciliana nata qua una ragazza moderna. D'altra parte, Rosalia, per certe cose, e ora non vorrei scendere nei particolari intimi matrimoniali, ma non ci è portata. È, come dire, una donna tranquilla. E beh, ora si sente sola. E se sente sola, che ci posso fare? Insomma, fatemi capire esattamente che cosa vorrebbe. Un vecchio? No. No. E come no? È già gravida. Ah. Da 3 mesi incinta. Successo, padaracchio. Ora lo sai. Tu sei un uomo intelligente, metallurgico, comunista. Le tue colpe ce l'hai anche tu, quindi non ti mettere a fare compare Turiggio. È arrivato il momento di sistemare le cose. Vi accomodate a divorzio, non divorzio, senza tragedia, con stima reciproca. In fondo è meglio pure per te, no? Puoi dare l'esempio di come ci si comporta in certe case da uomini civili, senza tanta stupidaggine. Conosco la guida, meschina. Un tale si innamorò, lei resistette, tu tenevi l'esaurimento, lui insistette e lei cadde, meschina. Fu solo per una volta, ma purtroppo... Basta! Spengo io il nodo, mazzo che ho! Ma la femmina! Un comunista, non si comporta così! Ma vaffanculo del comunismo, ma che comunista connoto sono! Mi cacciavo a piedi! Sopra di strumenti, vai a scendere! Ma cagli, vedere, pedosa! Fermati, Mimì, fermate! Mimì, fermati! Ma mi dovete amare, ma che tu fai? Ma che fai? Ma perché, Caglia, trascinaste in tuo fango l'onorato nome della famiglia Mazzocheo? Il nome di mia madre! Ammazzati! Sì, signora! Perché te volare l'olio! L'olio che te può lavare! Ma sta minchia e scialle! Io levano! Sensore! Se ne suonerai! Pagare, bevo! Hai ragione, Mimì! Santa Croce, per Dio! Non mi dare ragione! Aspetta, che femmina e quindi ancora più gioia da te! Non mi dare ragione! Che se mi dai ragione, non hai più la faccia da fatte niente! Brutta maiala, traditrice! Ma tanto uccidere te devo! Posso vivere stesonorato io? No! Posso vivere con nodo io? No! Ammonigna, schifosa, confessa, come un cominciò, come un fuoco. Prima di morire, confessa, tutto voglio sapere. Non è pigliare patente. A patente bottana? No, di scuola guida, c'era Idu, candidisa, sottufficiale di finanza fino a Chiaramiccare, brigadiere. Ah! Teneva sempre caramelle di miele. Se le offrì, è così. Che come così? E tu offrì le caramelle di miele? Che te resti sulle sottane? Ma come te lo metti? Se innamorò. Come lo fanno se innamorò? Piangeva. Cantava, sai, pro cuore uno zingaro. Io resistetti, ma più resistevo più cantava. Finché, la mattina che ci fu la sparatoria che sparano un consigliere comunale, tu ricordo consigliere comunale che ci hanno murato un tocemento. Ma che me ne ha fatto tu consigliere comunale un tocemento? Dove vu? La cabina della gru. In una cabina, la gru? Era di guardia canteri, chiudeva, e ci riparammo in una cabina della gru. E tu, la mia signora, si fa ingravedare in una cabina della gru? Ma io lo devo ammazzare subito, che sta facendo così? No, non mi risparmia, non ci sono di mezzo creature innocenti! Ma perché pure sposato, eh? E aveva figli, magari? 5. Ah, benissimo! Ma Rosalì, ma che minchia di tradimento, yeah, mi fai proprio cascare le braccia. Con uno che fa un finanziere, che aveva 5 figli, dentro la cabina di una gru, e che si chiama pure Amilcare. Era tanto gentile, soprattutto quando seppe tanto disgrazia. Ma quale disgrazia? La malattia. Insomma, la debolezza. La debolezza? Ah, ci dicesti pure, patrona. Ma che sta ci dicesti? No, l'avevo sentito dire. Io ce lo negai per non ti fare fare brutta figura. Ma poi mi portaggio un ematografo, mi fece vedere il film a Ballantana. Io ce lo dovete confessare. Allora, non solo per connudo, ma un governazione lo vuoi fare passare. Una testa di minchia in divisa di finanziere. Eccetto. E certo, fai comodo suoi, tanto il marito è ricchione, eh? Fai comodo suoi, lo stronzo. Ma io ricchione non sono. Io se non ebbi contatti cannali con te, perché mi fai schifo, primo. E secondo, ebbene sì, è tempo che si sappia. È perché hai un'altra femmina, bellissima, e che facciamo al lavoro anche 10, 15 volte di seguito, giorno e notte, perché ci piace. Altro che ricchione. E inoltre, vedete un figlio, maschio, bello come il sole! Fugo tra i buchi! Per favore! Yeah. Per favore, velocemente, si tolga perché qua ostruisce, forza. Sei in croce. Che? Che sta dicendo? Vabbè, me lo spiega dopo, per ora si tolga da qua, si levi. Forza, presto. Sei incastrato, che dici? Documenti, apro lo sportello e faccia presto e si tolga. Allora, apra sto sportello, no? Non si apre. Per favore, poche storie, documenti, che significano queste cose? I documenti, forza. Forza, insomma basta, forza. Che? Per favore, si accosti, mi dia i documenti ed apra la macchina. Come lo fa? Brigadiere, a me sai che qui c'è qualcosa di sospetto. Andiamo a telefonare alla centrale. Va. Succede qualcosa? Scusi, lei chi è? Che vuole? De Andrea, il deputato in Parlamento. Scusa, non è. Che? Ma posso fare qualche cosa? Eccellenza, posso essere utile in qualche cosa? Posso essere utile? No. Ah, non si sente. Ma prego, si accomodi. No, non si apre, onorevole, non si apre. Non si apre. Lei è fortunato. Casa mia, ci sono io. Brigadier su. Lasci, onorevole. Carabinieri, macchine ministeriali, noia. Brigadier, forza, eh! Avanti da questa parte, avanti. Così? Va. Sì. Vai, prego, una mani. Metri. Forza. Giovinotto, invece di starci là, perché mi andavano pure lei? Spingi e basta. Ecco il garage, il brigadier. Forza. Ecco. Salire. Su. Ci vuole anche l'attrezzi, chiedi. Pronto, Ministero degli Interni? Sì, pronto. Per favore, il dottor Crisafulli. Chi parla, eh? Un deputato. Quale deputato? Non si preoccupi, parla un parlamentare a nome dell'onorevole Malaragna. Chi? Non faccio domande, le ho detto, onorevole Malaragna. Si chiede una metodologia di massima riservatezza da parte dell'onorevole Malaragna. Sì, completo. Sono io, Crisafulli. Ma che sua eccellenza aveva indetto una conferenza stampa. Ci sono i giornalisti che lo stanno aspettando da 2 ore. Allora faccia subito rimandare. Subito, beh sì. Del resto si tratta soltanto di un problema meccanico, eh. Mi raccomando però, atteggiamento consapevole, stante la presenza dei mass media, eh. Non vorrei che insorgesse, come dire, insorgesse una distorsione faziosa. Lei conosce la stampa? Conosco. Qui è avvenuto un guasto meccanico. Anzi, bisogna avvertire immediatamente il capitano Pautasso, mi raccomando, eh. No, non faccia domande, la prego. Sì. Allora, ci vediamo subito. Sì. Al fontanone del Gianicolo. Sì. Davanti al Pissoir. Sessuar. Al Pissoir. Ah. Ha capito? Onorevole, speriamo che ci troviamo. Non speriamo, certo. Crisafulli, sicuro di non essere stato seguito dai giornalisti? No, stia tranquillo, abbiamo depistato la stampa. Come sta Sua Eccellenza? Desidera la massima riservatezza. E infatti io non ho fatto domande. E il comandante Pautasso? È nella macchina. No. È l'unico Digos di cui Sua Eccellenza si fidi. Qui lo Digos e qui lo Negos. Sono il capitano Pautasso, l'onorevole De Andrei. Sì. Perdoni la divisa, ma mi hanno prelevato al volo mentre stavo galoppando al centro ippico di Passo Corese. Meglio, con la divisa non verrà scambiato per uno dei servizi segreti. Giusto. Al Viminale, la stampa era già tutta in agitazione. Si temeva un ultimissimo colpo di coda del terrorismo. C'è Dio ci aiuti. Come? Ho portato con noi il nostro miglior meccanico, Dio ci aiuti, perché se non vado errato, di guasto meccanico si tratta, è vero? Si accomodi. Sì, un ingranaggio che non funziona. Ci accomodi, onorevole. Grazie. Ci accomodi. Ecco. Vai. Lei, onorevole, abita qui vicino? Sì, proprio qui accanto al fontanone. Nell'inconveniente ho avuto una bella fortuna, Sua Eccellenza, capitare proprio vicino a casa mia. Sarà una buona occasione per conoscerci meglio. Ecco qui a destra. Onorevole, le spiace se faccio mettere in casa un sacchietto? Per Bacco. Contiene due mademoiselle, sa? Mademoiselle? Due mitragliette. Vai a mettere nel mio studio. Ecco. Mi raccomando, faccia il bravo, eh? Ma esattamente, che cosa è successo a Sua Eccellenza? Ma niente, un blocco meccanico. Una sciocchezza. Bisogna far chiudere il cancello e inserire gli allarmi. Chiuso ermeticamente, bloccato. Coraggio, onorevole, coraggio. Tenetelo su col morale, per favore. Tenetelo su. E Greco vuole trasmetterci qualcosa col computer. Giornalisti, reazione, stampa, mia assenza. Sì. Sospettano azione terroristica. Ecco. Cilinza? Messaggio. Responsabili. Sì. Massimo. Sì. Accidenti, è andato in tilt. Accidenti. Vi faccio responsabile. Ma non capisco bene, scusi eccellenza. È inutile che gridi, la macchina è insoronizzata. Abbia pazienza. Si aiuti facendo il mimo e soprattutto sorrida, non lo innervosisca. Ma lo dice a me quando è nervoso di picciolo alla calligrafia. Ecco, dunque, faccia Massimo vedere. Ri, Massimo Ri. Massimo. Ah, Massimo Riservo. Riservo, l'ho letto anch'io. Grazie, eccellenza. Sembra così zelante questo teatro lì. Se sapesse come si irrita da Sua Eccellenza, non lo tollero. Me lo immagino. Come va lì sotto? Allora, questo è un carro armato. È un'arma da difesa. È il gioiello della tecnica più avanzata. E quindi, speriamo bene. Firmato Dio ci aiuti. Sì, va bene, ma sorrida, sorrida, ottimismo. Io sorrido, sorrido, ma... È incredibile che proprio su questo che l'ultimo grido, il modello Prometheus... Sì, ma so che viene fabbricato in una cittadina giapponese con 12.000 ingegneri. Il cervellone elettronico che elabora il meccanismo si chiama Zeus e il prototipo si chiama Prometheus. Attenti, che attacca la fiamma. Sì, sì, giù, giù, che fa male agli occhi. Giù, Prometheus, che rubò il fuoco agli dèi e fu punito da Zeus, che lo fece incatenare e gli fece mangiare il fegato dalle aquile. Prometheus incatenato. Eschilo, si ricorda? Ho fatto studi scientifici. La vendetta degli dèi. Per uno sciocco indoppo meccanico, una macchina nuova. La blindatura Prometheus è un gioiello della tecnica applicata nipponica e si blocca così. Una beffa. La ricerca elettronica, il telefono collegato col Viminale, la questura, niente. Ma come può essere che non funziona più niente? Una beffa. Chissà poi quanto sarà costata questa super blindata. Ah, non ne parliamo, una fortuna. $200,000. $200,000. Quasi 400 milioni. E non è neanche la più cara. Faccia il bravo. Sa che la direttrice di Playman ce n'ha una che costa $800,000. Come lei? Beh, che la cosa non arrivi, voglio Dio. Ha le orecchie da stampa, eh? Beh, il ministro degli interni intrappolato nell'interno di una macchina blindata. Beh, sarebbe come se si chiudesse i testicoli in un cassetto. Complimenti, onorevole. Grazie, ma guardi, la casa non è mia, di mia suocera, eh? Brigadieri. Brigadieri. E quelli? Li ho trovati per la strada, loro mi hanno aiutato nello spingere la macchina. Ma possiamo fidarci? Dico, nei secoli fedeli, se ci tradiscono proprio adesso. Comunque, sarà bene impedire loro qualsiasi dislocamento o comunicazione con l'esterno. Stia tranquillo, ci penso io. Sì. Bisogna stare attenti. Troppe talpe in giro al giorno d'oggi, dovunque. Come si dice, meglio fidarsi che non... Un telefono, per cortesia? Grazie. Pensi davvero, onorevole, se la Gusta trapelasse. Pensi i titoli di certi di giornali, pensi i forattini, quel bambino. Prima di tutto salvare l'immagine dello Stato nella sua globalità. Beh, questo è un impegno qualificante per me. Peccato che il ministro, un pochino mi sottovaluti. No, ma perché? Sì, perché il transatlantico, l'anno scorso si vociferava che fosse stato proprio lui a porre il veto alla mia candidatura al sottosegretariato. Non saprei. Un luogo un po' più appartato per poter operare. Il mio ufficio. Grazie. Gradirei anche che tutti gli altri telefoni della casa fossero portati nel suo studio. Senz'altro, vai, come si dice. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ma non c'è... Ma due carabinieri? Vincenzo! Che c'è? Sono qui per noi. Vabbè, non dire stupidaggini, è un banale incidente meccanico occorso purtroppo... A me, alla mia macchina. Io sono il dottor Grissafulli del Ministero degli Interni. Mi scusi l'invasione, signora, e grazie mille per l'ospitalità nel suo garage. Prego, e questi... Sono le mie guardie del golfo. Ah, non so, perché uno entra in casa e si trova due carabinieri. Oddio, vabbè che al giorno d'oggi... Mi raccomando, assoluta discrezione. Tutto fatto, ho parlato con la tenenza. Allora, signor capitano, possiamo andare? Ma cosa avete capito? Tutto fatto, mi scusi. Tutto fatto vuol dire che da questo momento voi siete avvocati. Avvocati? No, mi scusi. Faccia il bravo. Faccia il bravo, brigadiere. Avvocati, vocati, chiamati, ordinati. Da questo momento voi siete comandati di servizio presso l'onorevole. Sì, signore. Sono tutti i telefoni della casa. È l'ultimo. Pronto? Prego. Com'è? Leali. Com'è? Pizzeria Bella Napoli. Pizzeria Bella Napoli. Ehi, 5-6-5-6-9-10. Maria Teresa, non mi scappare sempre. Non ti rendi conto che c'è un bisogno emergente? Ma di una doccia! Non scherzare, piuttosto aiutami ad affrontare la situazione con una prospettiva politica. Prospettiva politica? Eh sì, Crisafulli è soltanto un portaborse, ma è un personaggio molto importante del partito. Ti prego, sii gentile con lui. Ma certo, caro, certo. Del resto, che importa la viltà se sulla terra c'è un solo coraggioso? Ho capito tutto. Come non detto, tesoro. Across the freeway flow, against the western road, on plodding shoes I go to steal you out of tow. And so I will do so, up the access stair, to cash my paycheck there, and down again. Yeah. Maria, caffè. Ah! Oddio, che schifo! Oh, oh mamma! Ma che gusto c'è a tormentare così una poveraccia? Poveraccia. Poveraccio sei tu, eh? Va bene, ricaccia! Avanti! Andiamo a lavorare! Hai capito? Perché chi non lavora non mangia! Ma pure là dentro! Ma! Oh madre, ma! Ma scusi, ma non ho ancora finito questo gioco di massacro! Ma perché gli ha preso così? Non è abbastanza un disastro questa scemenza che ci è capitata? Ma perché fammele pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Che cos'è che ci guadagna poi, scusi? Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata. Lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh? Chi è che te lo dice che ci verranno a salvare, eh? Chi te lo dice? Ma che te lo dice? Qua su quest'isola non ci resteremo uno, due, tre, quattro, cinque, sei anni, eh? L'ammazzo! Ah, tu t'ammazzi? Io ammazzo, ti sono fatti tuoi. Ma se vuoi stare qua e vuoi mangiare, devi lavorare, hai capito? Guardi, mi fa male, eh? Ma che te credi che io ti faccio io da servatina? Eh no, bella mia, è finita la pacchia. Sei tu che vai a fare tu da serva mia. Perché la femmina è nata per fare la serva all'uomo e non il contrario. Guardi, mi fa malissimo. E te farò ancora più male assai a te, finché non hai capito bene. Chi è il padrone? Bacia la mano al padrone, bacia la mano, bacia la mano. Prego. Bacia. Brutta bottana industriale, che mi facesti sputare sangue so che da maledetta bacca, che ancora ieri sera ti permettesti di dirmi in faccia che ti faccio schifo. Bacia la mano, padrone, bacia la mano. Oppure vattene via e non ti fare più vedere a venire a piangere avanti a mia, sa, perché io non posso avere pietà. Lei è un verme. Lezione numero due. L'hai capito, femmina? Io non ti posso permettere più di insultarmi. Sparire! Mira que passa sense saviesa pel vell camí fressat tan sols un cop. I que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu la mort. No tornaràs, recorda, no t'apartis mentre fas via del que tan senzill és d'estimar. Aquest blat i la casa, blanc senyal de barca dins del mar, el lent or de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Oh, sobretot, estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la lluna. at the station. It's time to play the midnight creep. Everyone's invited you. Not everyone can find the truth in me. I fold up, I pack, but I don't leave. Who said revolutions come in threes? The red clay earth sticks to your feet. If life could always taste Ma chi? E allora io ci ho detto, cara mammetta, io a Galarate non ci resto. La maestra come te non la voglio mica fare, scusa. Ciappo su i miei 4 straccetti, un taglio e via, a Milano, a vivere la mia vita, E la viveste? Sì, figurarsi, un bel nagot commessa sulla standard. Sono mica portata io, no. Poi tanto guarda, è finito tutto in vacca. Già, aspetta che te conti. Quel verme del mio capo reparto, è il mio capo, no? Un giorno mi chiama per il rapporto e vede che c'ho il libretto di Mao nella borsetta, no? Quello rosso, ecco. Lui il ciappa su, chiude la porta del suo ufficio, viene e mi mette una bella manona sul sedere, quel maiale d'un porco. Sorride il maialone, mi fa, dice, sta attento, mi dice, uè te bellezza, o me la smolli o te le censi com'è anarchica. Mica lo smulada, una bella sberlona e via. Ma che bello che qua, sembra i De Parche. Guarda, sembra proprio un posto di delitti questo qua. Una roba di quelli lì, aspetta, com'è che si chiama? Una roba di maniaci sessuali. Oh, uè te, ma che cosa c'hai da guardarmi così? Mi fai fino a paura? Uè te, c'ha lì una faccia che sembri uno che c'ha mal di pancia davvero, eh? Sarà colpa della birra gelata, guarda, certe volte no. La birra gelata... Coppa d'oie. Mia di me. E perché? Scusami ancora. Per piacere, per cortesia, compagna, ti spiace se ti bacio? Ma... Per piacere, per cortesia. Ma a te, se me lo chiedi per cortesia... Per piacere. Per cortesia. Ma uè, ai... Ma scansione! Ai! Di un porco! Che finezza, signorina! Etero non ordinario! Sti teruni, meglio in gioco una piena fai violenza! Mi toccherò anche subire la violenza del terone momenti! Ti promettere mica perché ti spacco la testa, me te la spacco! Prima mi domandi per piacere e per cortesia un bacio! E dopo parti per la violenza carnale, ma va all'interno, va, tarò. Ma non fu violenza. Passione fu. Scusami, Viale, ma io fui già volta. Io non potetti assolutamente resistere alla tentazione dei sensi. Ma quale violenza, ma per carità. Ma quando mai? Modestamente con le femmine risultai sempre gradito io. Ma Gottia per da fiare è diverso. È diverso perché tu mi piaci come non piacque mai nessuno. Ora non mi puoi rifiutare, Fiore, ora non mi puoi dire di no, ora. Invece ora ti dico proprio di no, perché che mi hai preso? Ma rifiuti? E perché? Qualcuno ti ha raccontato qualche cosa dei miei confronti? A me? Ma chi ti credi di essere tu? Ma chi è che ti conosce? Fiore, dimmi la verità. Qualche malalingua ti ha riferito? Che io sono maritato? Immaginarsi adesso, vengono tutti qui a parlarmi di lui, tutti quelli che incontro per la strada, ma sta attento te Catania, me del tuo matrimonio non me ne porterebbe un fico, figurarsi se io mi farei bloccare dal sacramento, sì, che tanto non sono neanche d'accordo, poi guarda, per me libero sposato è lo stesso, tanto la ragione è un'altra, io l'amore ci credo, per me l'è una roba seria. Ma io ti sembro allegro, serissimo sono, io dall'inizio non capivo, ma... Credo che cadi innamorato di te, appena te vedi. Te? Io no, o bella? Fiore? Fiore, aspetta. Non mi era mai successo. Io manco ci credevo all'amore. Lo consideravo una scemenza di femmine. Insomma, un'esagerazione di sentimenti languidi. Invece, adesso mi ci sento proprio male. Mi dispiace per te, io mi sento benissimo. Ma perché? Ma che cosa mi rappresenta questo rifiuto? Prima mi parevo che ti piacevo. Beh, allora, anche se mi piacevi, sono mica innamorata, scusa. Ma io sto male, in fondo che cosa ti costa? Io soffro, fammelo per favore. Oh, e te, ma sei matto, sì. Figurarsi se ce la faccio per favore. Ma sono mica robe che si fanno per favore queste qua, Io sono anche vergine. Vergine? Ma nel senso dell'oroscopo? No, carino, proprio nel senso quello giusto. E non fare quella faccia lì perché te la due sberle, Un altro di quelli che non ci credono questo qua. Vergine? Io mi compiaccio, ma... Ma scusa, ma come non mi dicesti cari compagna, cari anche Giorgio? Tro cosa? Ma come accidente se dice? Tro schista, beh allora vuol mica dire puttana, Scusa, ma io questa parola non me la sarei mai permessa. Ma vedi, è che qui nel nord c'è una grande confusione. Non si capisce proprio niente. Ma che faccia è che ci avrò la fin fine? Oh, ma guarda che mi tocca di stare lì a spiegarlo a tutti. Poi guarda, non c'è neanche voglia di stare lì a contarla su, tanto figurarsi, sì. Un po' che non mi credono, scusa, sì. Ravione. Un po' che vogliono le prove, oh, ma fassi una testa in sci, che son matta, che son frigida, oh, ma io la penso come la penso, capito? Ecco. Io al matrimonio non ci credo, ma l'amore sì, e lo voglio fare soltanto con l'uomo che amerò. Quando verrà, guarda, a costo di aspettare 50 anni. Capito? Sennò a me mi sembra delle gran porcate quelle robe lì. E allora lo sai cosa ti dico, Catania? Te con me nisba. Adesso c'ho più su e mi scancelli, ce l'hai la bici? Ecco, pedala, aria, anzi, fa un'altra roba, va. Va all'inferno! Terum! Ma chi è? Sei tu, Maria? attraversare la strada. Sembrava facile guardare negli occhi gli avversari, sapendo di non poterli colpire. Sembrava facile non ascoltare i guru, superare di slancio i mistici e i santoni, rigare dritti, farsi di vetro, legna, acciaio. Sei Manuia, la porta è chiusa, iam, Raccontalo che è successo. Carmelo, fermato a tempo, a tempo. Aveva la siringa qua e hanno ammazzato a Totò. L'hanno ucciso. E questo è a giacca sua. Totò. Perché a Totò? Era il docente. E perché drogare a Pumarulella? Perché due creature sante. Che... io lo so di chi è la colpa. Di quei maledetti schifosi come Frenchi Acquasanta. Infame. Per pigliarsi quella roba cinese. Stanno uccidendo tutti. Con babà hanno cominciato che l'infame. Infame? Quale infame? Chi ha ucciso Bartolomeo Rocco non è un infame. Non sia Bartolomeo Rocco, babà. Ma tu sai che fedente che era? No, tu non ti puoi ricordare perché quel giorno non ci stavi. Corrita a casa! Vostro figlio non sta buono! Era sembissa. Coppa che la motocicletta rossa. Maronna che corso. Con mano pazza. E all'angolo da strada ha già visto babà. Tinta macchina. Che mi guardava. Teneva una faccia. Lo sapeva quello che mi aveva fatto a me. Quello che mi era successo a me. Che la povera creatura mia. Tenera, tenera. Con quella fucchella che sapeva ancora il latte. Piccirilla. Che se doveva fare ancora prima comunione. Non è morta ancora. Tony ed io. Abbiamo fatto di tutto per non... per non far sapere niente. Per non far sapere. Eroina. A 9 anni. La gente diceva, basta Carmelo, basta. La vita deve continuare. Datti pace. Pace. Ma qua pace. Io pace non me ne potevo dare. Io tenevo sempre a faccia babà, annanzi all'occhio, che mi guardava dinta macchina. E allora andavo girando come un topo, impazzito in defugna. E là ci siamo incontrate. Tanti mamma che andavano dietro a quei sentieri di fogne che le madri di solito non conoscono. Dove i peggio infami vanno acchiappando creature che vi caramella, che vi videogiochi, i flippers, vi fa dannà. E allora ci siamo riconosciute. Ognuno di noi, teneva scritto in faccia creatura sua. Chi fatta zoccola, chi ha spacciato, chi morta. Io, Maria, Elena. La femmina tanco. Ci siamo scoperti che eravamo assai. Tanti mamma con sto strazio dentro, pronti a tutto. Per fermare sta maledizione che ci distrugge figlio nostro. Io sto incidendo a canzone, non si ha. Vecchia e cecata, ma te ne orecchie buone e naso fino. Incisione di sta canzone non ce ne stanno. Aveva ragionissimo. Ero io che cantavo con la terrazza. Da sopra che la terrazza controllava un'altra terrazza dove ci stava Assuntina, che poteva vedere la chiesa della piazzetta. E da là Assuntina poteva fare il segnale alle altre. Quando quella grandissima chiavica umana che rispondeva al nome di Bartolomeo Rocco si avviò verso la pensione, Assunta facette un segnale con un suo Evelina e esso facette a me. E così ha già cominciato a cantare. Cora de carta de giornala, cacita, quando... A questo segnale Maria telefonò a Rosario, raccontandogli che un suo antico innamorato, Vicenzino Pompier, lo aspettava in un bar. Lui si precipitò. L'ingresso della pensione rimase incustodito. Chiunque assassino poteva entrare e uscire senza essere visto. Era contro ora. Alla scuola di ballo c'era lezione e in giro non c'era nessuno. Così Maria riuscì ad arrivare alla pensione senza che la vedesse anima viva. Doveva aspettare a babà sulle scale, ma tu hai cominciato a strillare. C'era pericolo che arrivasse qualcuno. E allora, la casa di Venatori! Ce la faccio! No, dai! Eravamo tanto, eravamo tutti insieme. È stato un miracolo, mi è andato tutto bene. E dopo papà, Nicolino Camello. La siringa che ci ficcai in corpo era quella che trovai dentro il braccio di Francesca. Oh, figlio mio. E quando ci ho detto al marito mio, l'ho pugnalato con la stessa siringa che avevo trovato in da cartelle scolaro picciolino mio. Mia figlia Maria Teresa teneva solo 13 anni. E sì, ma tanto. E dobbiamo continuare. Finché non capendo più niente, si accideranno fra di loro. Ha da diventare un massacro. E sentito, dove? Che è la Carmenella d'Oglia? È così che ne sola, così che ne musica. Sono belle femmine, eh? E che può fare? Che l'annunziata mi voleva denunciare, la polizia mi vuole arrestare. E che già fa? Che posso fare? A disposizione. A dove mi volete fottere? A re? A Nanz? Ca? Oh! In ace mai ci sa nessuno. Tu? Tu ti sei arricchito con chi lo voleva? Io? Ah, solo io, vabbè. Ah, tu non dici niente, eh? Lasciala sta, Achille! Io non ci credo. Carmine, che ci puoi avere a che fare tu con sto schifo e feroce, con sti serenghi in te palle? Tu vuoi coprire qualcuna di loro? Io volevo coprire a te! Perché l'aveva sentito tu? Tu l'aveva sentito questo bisogno assolutissimo e schiacciare la cava che la serpe velenosa e spazzare quella catena di veleno! Ma come poteva fare? Io sono anello e che la catena! È la verità! E da quando? Ma quando mi dicevo che ci porti in quelle casse insieme alle sigarette, pammura a maronna, chi lo volena no, e poteva sta quieta, ti giuravano chi no. E così ha cominciato sta commedia. Io se facevo costruttore e o delinquente lo facevi. E nessuno l'aveva sapere, ma anche la vostra amica Annunziata. Tu? Che hai tenuto Pasqualino morto in te? Ma non ti sei arrutato ancora? Tonia, ha fatto che la cadeva fa? Creaturella nostra. Non si poteva tirare indietro, ma così va fatta una casa, ha potuto mettere su sto sciopo buio. Quella creatura nostra, con quel buco di morte, dentro e carne. Ma non se ne esce, Carmè. Dove doveva andare? Cadeva fa? Eh? Ti doveva dare altri dispiaceri. Perché sto ce l'hai detto tu? Brutto potente! Sì, perché? Non ne ho vero, forse. Volevo trovare sto povero uomo che vi fuori, ho la gola tagliata. Povero Pasqualino. Povero scugnizzino nostro. Che appena stanno in piedi incominciano a faticare. Io mi ricordo quando ero creatura, dopo la guerra. E falla per mamma. E falla per papà. E che non facevamo? Davanti a prendere sta città noi piccirillo. Madonna! Rubavamo carri armati, fucili, navi. Vendevamo negri, sorelle, madri. Noi stessi, ma era per campà. A religione, travestita da San Gennaro a Madonna Pompei. Ma era sempre a vita. A vita. Ma no adesso, mo è nata cosa. Adesso ha morto. È la vostra religione. Perché anche le iene nel deserto difendono i figli loro. Ah, già. Erano tutta amore, femmina voto. E capivano. Capivano. Ma voi siete briacata a capo e non capite più niente, mo. Che peccato. E mo siete contenti, Don Rocco? Complimenti. E voi avete sempre avuto grande classe. Eccoci qua riuniti tutti quanti per questo bello pranzo e cena, sta bella festa di famiglia, e bravo. Ehi, avevate ragione voi con quella cazzo di canzone. E mo che? Voi volete vendicare i figli vostri? Si femmine i figli loro. Io prossimo chi è? Eh? Io? Oh, no, no, no, no. Mi dispiace. Signore mio, scusate tanto. Ma io tengo che fa. Elias, magari... Eh sì, pare brutto, non è elegante, lo so. Che caccia fa? È meglio uno scostumato vivo che un signore morto. Ma chi è? Sei tu, Marie? Sì, ma noi. La porta è chiusa. Già, raccontalo che è successo. Perché tu vuoi così? Non ti piacerebbe, ti dicessi sempre sì. capricciosa, ma non con tutti sai. Solo a te riesco a combinare guai. Saremo insieme noi, per sempre io sarò la ragazza capricciosa che tu vuoi. Sono capricciosa perché tu vuoi così. Non ti piacerebbe, ti dicessi sempre sì. E se ti tengo il muso, non ti parlo più. È per dimostrarti quanto mi piaci tu. Io e te giriamo intorno al mondo, il mondo gira intorno a noi. Io e te guardiamo al futuro e il futuro guarda noi. Io e te giriamo intorno al mondo, il mondo gira intorno a noi. Minuti dopo la mezzanotte, Bert Müller Session a 25 o'clock. Ci siamo cresciuti là dentro, dentro quel milò, quello strano brodo primordiale. E avrete capito anche da il breve preambolo che anticipa ogni puntata di 25 o'clock, quanto possiamo apprezzare chi ha reso quegli anni. Nella loro complessità. Quello che in tempi attuali e con termini recenti viene definita intersezionalità. Non è altro che un fermento. Che se da una parte era conflitto, espresso anche così, plasticamente attraverso l'utilizzo dei dialetti, delle parlate territoriali provenienti da storie diverse, da modi di essere differenti, e che nella grande industrializzazione era produzione di cambiamento e di cultura, di cambiamenti culturali e di cultura del cambiamento. Dal 1963 fino ai tempi più recenti, attraversando ogni fermento e guardandolo con, osservandolo con quello sguardo cinico che non poteva che raggiungere o giungere a una resa, a un risultato sempre tragicomico. Questo è il nostro piccolo omaggio a Lina Wertmüller. Quarantadue minuti dopo la mezzanotte. Vi ricordiamo perciò le presentazioni di Scarceranda il 18 dicembre, sabato prossimo alle ore 15 alla Snia Viscosa, e poi vi ricordiamo anche il presidio sotto Re Bibbia il 31 dicembre, dove ovviamente sarà presente la Scarceranda. Odio al carcere, presidio sotto Re Bibbia, 31 dicembre 2021 dalle 10.30, via Maglietti, angolo via Bartolo Longo. 15 detenuti uccisi, torture, rivolte, processi, il tempo non cancella la rabbia, per quel marzo 2020, Scarceranda, Radio Onda Rossa. Scarceranda che potete trovare in radio e anche nelle librerie, diciamo, di movimento. Sabato 18 dicembre prosegue seconda serata per Aperiror di Radio Onda Rossa, connessa alla presentazione di Scarceranda. Centro sociale occupato e autogestito SNIA Aperiror, l'aperitivo a sostegno di Onda Rossa, dalle 18, diretta radio con Salpinazza, bella DJ Lenin. Dalle 19.30, presentazione culinaria di Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno. E ovviamente ci sarà musica, drink, cibarie curate dalla radio e a sostegno di Radio Onda Rossa. Detto questo, ricordato questo, non possiamo che concludere con il consueto saluto a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa termina con noi. Vi terrà compagnia la compagna automatica sonata fino alle 8 di domattina con le sue repliche e i podcast della radio e la programmazione musicale. Dicevamo, si riprende domattina alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. I redazionali dalle 10 alle 12.30 circa, alle 14 si riprende con tutta Scena Cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Alle 16 Attica Blues oltre alla Black Music, e 17.19 all'incirca a sforare anche sovente le schiene del Soul, Bella Martis. Alle 20.15 la trasmissione sui libri di Onda Rossa, Tabula Rasa. E alle 22 i Cuginetti d'Apostasia a chiudere la programmazione del giovedì. Sì, ci sentiamo mercoledì prossimo, chissà che non daremo un forfè per prima della fine dell'anno, magari trasmetteremo da remoto, chissà. E poi ci si risente tutti a gennaio. Insomma, ci siamo. Sostenete Radio Onda Rossa, bella a tutti e a tutti. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Yeah! This all shall dreams, all shall dreams. dreams, I'll share our dreams under a communist.